Flag, la canzone dei mondiali che sono appena finiti. Alcune squadre hanno già cominciato la preparazione, il calciomercato è in fermento, e allora parliamo di un allenatore che in un anno ha lasciato il segno, anche se non ha vinto niente. Vabbè, ha vinto in eleganza. Parliamo di Leonardo e lo facciamo con l'autore del libro La coscienza del diavolo. Buonasera a Cesare Rezzi. Buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori di RTL. Bene, grazie a nome anche degli ascoltatori. Allora, dopo la grande delusione del Brasile ai mondiali, adesso si parla già di Leonardo sulla panchina dei Verde Oro, perché intanto insomma ha lasciato un'impronta indelebile su quella rossonera. Io ti chiedo, come ci è riuscito secondo te e qual è il messaggio che ha lasciato, pur dicevamo senza aver vinto campionato o coppe? Il messaggio è quello di essere innamorati del pallone senza essere forzatamente schiavi del risultato, sì. Quello di essere appunto sempre consapevoli di aver dato il massimo, sì. E chi dà il massimo vince comunque, come diceva un vecchio spot. Il popolo del Milan l'ha capito e si è schierato con Leonardo e con la squadra dopo l'ultima partita di campionato, dopo Milan-Juventus, nonostante la stagione del Milan non fosse stata sicuramente una stagione brillantissima. Di sicuro. Ecco Cesare, qual è stata la molla che ti ha spinto a scrivere un libro proprio su questo tecnico gentiluomo? È stata una proposta di Limina e dell'editore Enrico Mattesini, sì. Che io ho accolto con piacere, un po' perché mi ha fatto tornare ragazzino e un po' perché mi ha consentito di scrivere di una mosca bianca nel mondo del calcio, di un uomo che conosce cinque lingue, sì, che ha sempre sfruttato ogni avventura calcistica per imparare, che per arrivare non ha sofferto, non ha avuto particolari difficoltà, ma che nonostante il successo appunto non ha mai perso di vista la realtà delle cose. Sì, sì, sono d'accordo, devo dire. Allora io ricordo anche il titolo, che è La coscienza del diavolo, un libro sulla stagione di Leonardo sulla panchina del Milan. L'autore è Cesare Rizzi, lo abbiamo sentito al telefono con noi questa sera. Grazie, buona serata. Grazie a tutti i radioascoltatori di RTL, buonasera. Presenteremo. È vero, no, ufficiale, sì. Gentiluomo mi ha sempre ricordato Leonardo. Sì, perché lui è proprio, ha detto, mi ha fatto tornare ragazzino, no? Diceva Cesare Rizzi, perché evidentemente riconcilia con un calcio che ha un sapore e un profumo d'altri tempi. Esatto, esatto, bravo. Amiche per l'Abruzzo, questa è Donna, Donna. Ora dorme.